tutte le menzioni del Cox preparate dal nostro co-conduttore di gennaio, il super mega galattico Gabriele Investe W Tosi, qui per cui sostenuto da Claudio W Succi, che ha preparato una rassegna di selezioni con tanto di telefoniche con personaggi, curatori. E io volevo lanciarvi o lasciarvi con questa domanda: ma che cosa si prova a fare il curatore di una mostra? Devo rispondere io. Tu, immagino. Claudio, cosa pensi che sia la sensazione, cioè che spinge a... Beh, meravigliosa. Sei in mezzo all'arte, vedi arte, vendi arte, perché comunque c'è sempre anche quel lato, ma il lato più bello è respirarla. Quindi puoi scegliere, puoi viverla. Che dire di più? È tipo quando ti scappa la cacca, no? Anche quella puoi viverla. Ma qualcuno della cacca in effetti ha fatto anche oggetto di congiunture estetiche, cioè di riflessioni estetiche, congetture volevo dire. Tutto può essere soggetto a riflessioni estetiche, no? Vai, sì, anche grande curatore del terzo millennio, vai! No, ma la cacca non è meglio, non è peggio di tutto il resto. Chissà se ci sarà un po' di cacca durante la programmazione di Arte Fiera. Ma tu però la metti sul malizioso, Moscaro. Ah sì? Sì, oddio, sì. E tu 47 cosa dici? Dico che la cacca è in tutti noi. Sì. Era un modo per salutarci. Sì, ci sta. E allora salutiamo 47, ma forse salutiamo anche Claudio, non sono sicura. Saluto a K47 gli ascoltatori. E intanto che capiamo come procedere qui per qui, ma sarà sorprendente e mega galattico come coxuetudine. E paratattico soprattutto. E viva, andiamo con il primo brano che è questo. Les hommes et tous les mêmes, macho méchil, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla. Mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Thank you. les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Ed eccoci di nuovo qui in direttissima dagli studi di Radio Città Fujiko con la 126esima puntata di Coxo Spaziale, con quel gran coco conduttore super mega galattico che è Gabriele Investio W Tosi per tutto gennaio ad illuminarci sui temi dell'arte contemporanea. Ecco a te la parola, vai. E quest'anno è il 40esimo anniversario di Arte Fiera. Ma dai. Ma sì, sono abbiamo già 40 anni. Abbiamo la stessa età. Ma siete coetanei. Ma lo sai che è anche il 40esimo anniversario di Radio Città Fujiko? Ma cos'è successo 40 anni fa? Non lo so, tu dov'eri? Io non c'ero. Dormivo. Insomma, l'importante è che tu ci sia adesso. Esatto. A illuminarci. Con le menzioni di Arte Fiera. No, tutto, ma allora era Arte questo. Fiera. Tutto menzione tutto. Su menzione. Una parte, perché quest'anno Arte Fiera è veramente ricca di eventi. Non ce la farete mai a vederli tutti. Dovrete scegliere, dovrete esercitare libero arbitrio, coxici radioascoltatori. Libero arbitrio? Dovete scegliere cosa andare a vedere. Cioè paratatticamente. Sì. Molto paratatticamente. E l'ubiquità? Ultimamente ho ricominciato a guardare Heroes Reborn. Oh, santi Dio. Chissà se c'è quel superpotere. No, temo di no. Ok. Fortuna no. Siamo già fastidiosi in un posto solo. Sì, è vero. Bene. Jingle. Ma quello delle menzioni? Sì. Ma proprio così? Ma sì. Allora, va bene. Era qui. L'angolo della menzione. Il 28 gennaio inaugura Arte Fiera 40, un progetto espositivo a cura di Giorgio Verzotti e Claudio Spadoni che ripercorre i 40 anni passati e offre una visione sui 40 futuri, raccontando la storia stessa della fiera fin dalla sua fondazione. La mostra si sviluppa su due sedi a partire dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna fino al Mambo. Allora ci va lo stacco? Stacco. Arriva! Ecco. Sabato 23 gennaio alle ore 17. Ma proprio 17. Così, Ok. L'opening della mostra Casa Mare Dueling Heart. Per la mostra Dueling Heart, gli artisti Luca Coclite e Giuseppe De Mattia, con il curatore Claudio Musso, hanno accolto nel titolo la definizione suggerita di Jan van der Donk, fondatore e direttore di Studio Montespecchio. L'esposizione, pensata per il Museo della Musica, ruota attorno al video omonimo, all'idea di una mostra utopica in cui Casamare si relaziona con tutte le esperienze artistiche a fine del passato. E abbiamo in linea... No! Il curatore della mostra, Claudio Musso. Benvenuto al Coxo, ciao! Ciao! È ancora ciao, lì, Claudio. È ancora lì, grande! Ma a lui poi posso fargli la domanda che ho fatto a te prima? E qual era? Quella sul cosa si prova. Sì, certo che gliela puoi fare a Claudio. Dopo se avanza tempo non gliela faccio. Sì, dai. Intanto lo lascio a te nelle è tue tutto mio. Coxiche mani. Claudio, sei in mano mia, sei contento? Certo, Gabriele. Ciao Claudio, ascolta, cosa ci racconti del progetto? Casamare è un progetto che esiste da un annetto, penso, ormai, no? Sì, compie un anno espositivo proprio il 23 gennaio, infatti vi invitiamo tutti al primo compleanno di Casamare. E com'è venuto? È un progetto collettivo, nel senso che coinvolge due artisti e un curatore, e si muove proprio sull'idea di queste case al mare, che ovviamente non sono le case, le ville così aristocratiche, ma sono le seconde case che con molta pazienza e molta passione tante persone, in particolare al sud Italia, si costruiscono come quasi dei veri e propri musei della memoria, con tutto quello che riciclano dalla prima vita e quindi che diventa in un certo senso di seconda mano, e quindi ricche di oggetti, di ognuno dei quali racconta una storia e ha una sua particolarità, una nuova funzione e anche un nuovo valore estetico. E come interagirà questa estetica molto interessante della seconda vita degli oggetti con il Museo della Musica? con il Museo della Musica interagirà in particolare nelle stanze al piano terra, una delle quali ci ha colpito perché ha dei soffitti affrescati che ricordano dei pergolati ricchi di piante, quindi con tutta una descrizione fitomorfa, per cui sembrerà di stare in un giardino all'aperto, e le opere che parlano appunto di esterni di case a mare si dialogheranno con questi affreschi. Fedra, non vedi l'ora di passare un po' di tempo in una casa a mare a gennaio a Bologna, non è vero? Indubbiamente. E adesso sono talmente sconvolta dal progetto di questa puntata che navigo tra le menzioni per cercare di seguire i temi. Ma quindi il progetto Casa a Mare nasce proprio da una collaborazione tra un curatore e due artisti? Esatto. Vero, Claudio? Claudio, sì, uno dei... Sì, è proprio così. E ha una sede... fisica unica oppure è itinerante laddove la casa a mare viene a trovarsi? No, come i progetti credo diciamo più diffusi attualmente, ha come sede gli scambi tra via mail, WhatsApp e su altri diciamo canali che si creano tra gli artisti. Diciamo ne sappiamo qualcosa anche noi qui al Cox, in effetti. ti ringrazio un sacco per questa spiegazione, che effettivamente è una realtà che mi incuriosisce molto, e anzi la butto lì: quando mai la vostra casa ripasserà da queste parti, siete invitati a venircene a parlare in maniera anche più aperta e più espansa durante una puntata del Coxo che potrebbe esservi dedicata. Sarebbe bello incontrarvi e farvi conoscere agli ascoltatori di Radio Città Fugico e del Coxo. Grazie, accettiamo l'invito allora. Per il momento gli faccio la domanda. Domanda. Tu sei l'elemento curatoriale, cioè sei il curatore del trio, giusto? Sì. Che cosa ti ha spinto? Quali sono le sensazioni che ti hanno spinto proprio a livello estetico in senso etimologico a fare il curatore? Perché lo fai? Perché ti piace? Ma in particolare in questo progetto potrei dirti che è stata la sorpresa di aver trovato una concordanza di idee con altre persone non programmata precedentemente, e da lì quindi la volontà di volerle esporre tutti insieme in maniera collettiva, insomma, non più dando a ognuno un singolo ruolo che sembrava in un certo senso svuotato, e invece creandone dei nuovi. Grazie per la risposta. Ci ho messo lo stacchetto. Quando Fedra mette lo stacchetto è felice. Mi sta regolando. Sto entrando in carreggiata. Quindi, caro Claudio Musso, ti ringraziamo per aver. E rinnoviamo l'invito all'inaugurazione della mostra sabato 23 alle 17 al Museo della Musica. Indubbiamente, ma questo, come le altre menzioni che questa sera ne abbiamo tantissime, saranno pubblicate da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. E l'ho detto giusto, grande. Quindi ci va. quindi salutiamo Claudio, e quindi a prestissimo e buon lavoro. Grazie a voi e a presto allora. Ciao Claudio, grazie. Ciao a tutti. E noi come continuiamo? Mettiamo un pezzettino musicale. Oh, mi fai una menzioncina al volo? Una menzioncina al volo? Ce la fai? Ce l'hai pronta? Ce l'ho pronta. Mm. Ah, cavoli. Venerdì 29 gennaio a Palazzo De Toschi, inaugurazione della mostra La Camera sulla materialità della fotografia. La mostra, a cura di Simone Menegoi, indaga il rapporto tra fotografia e scultura. Saranno presentate opere realizzate con le tecniche fotosensibili più insolite e rare, tra quelle attualmente in uso oggi presso artisti visivi e fotografi. Cavoli, avevo spostato il mouse. Perché ero già sul prossimo brano, Monitor. È partito. È lui. monitor, interessanti. Ma non abbiamo tempo di parlarne perché abbiamo già un'altra menzione. Oddio, allora io devo andare con lo stacchetto. Giovedì 28 e venerdì 29 gennaio alle ore 21 presso l'Atelier C, Nosadella 2 Atelier C presentano il manuale della figura umana, secondo studio per l'allestimento di un impaginato, un'azione scenica di e con Marta Dell'Angelo e Fiorenza Menni, esito di un periodo di residenza di oltre un anno che ha visto le due artiste lavorare insieme nell'intento di dar vita a un'opera che sta a metà tra pratica artistica e pratica teatrale. E abbiamo al telefono la curatrice di Nosadella 2, nonché curatrice del progetto, Elisa Del Prete. Ma benvenuta! Ciao Elisa, ciao. È un piacere riaverti qui sulle frequenze di Radio Città Fugico per il Coxo. Ciao a tutti, ciao. Grazie a voi. Ciao Elisa, ci racconti un po' del progetto, cosa vedremo? Vedrete uno spettacolo performance in cui il protagonista reale è l'atto del guardare proprio, e si assisterà a un lento, lentissimo sviluppo di un'opera artistica, di un'opera d'arte messa in ritmo, nel ritmo del teatro. Quindi due linguaggi che si incontrano in qualche modo. Due linguaggi che si incontrano e anche, secondo me, tanta sperimentazione. Non sarà uno spettacolo tradizionale per niente, quindi non ci immaginiamo un palco e un pubblico e una platea, ma il pubblico sarà tra l'altro in mezzo alla scena, che si articolerà in vari due momenti principali più varie postille, diciamo, ma non voglio anticipare di più. Quindi le due artiste hanno lavorato assieme per realizzare un'opera unica alla fine, partendo dalle ricerche di entrambe, giusto? Sì, siamo partiti da un libro d'artista che è appunto il manuale della figura umana di Marta Dell'Angelo, e da lì, grazie alla drammaturgia di Fiorenza Menni di Atelier C, abbiamo costruito proprio abbiamo animato questo libro, e ovviamente il tema e il protagonista è il corpo umano. Vorrei chiederti, se possibile, come si è articolato questo percorso di co-creazione e in che termini, in che modo si sono incontrate, hanno dialogato le due artiste e quanto tempo quindi ci è voluto, e anche che tipo di supporto ha dato Nosadella. Nosadella e Atelier si sono unite per organizzare questa residenza, che è partita a dicembre scorso. Il primo incontro è stato appunto nel dicembre 2014, e da lì è stato un calendario di appuntamenti mensili in cui le artiste per solitamente 3 giorni si chiudevano in teatro inizialmente a parlare, a confrontarsi sulla pratica di ognuno e a mettere anche in dialogo le pratiche di ognuno, perché ovviamente un artista visivo è abituato a lavorare in studio da sola, un artista del teatro è abituato a lavorare appunto in teatro con molti altri soggetti, come con molti altri elementi, tra cui appunto uno spazio che non è per forza quello dello studio dell'artista. E quindi si sono un po' alla volta svelate a vicenda, si sono fatte un sacco di domande a vicenda proprio sulla pratica, come lavora una, come lavora l'altra, e da lì, in questo dialogo di conoscenza, loro non si conoscevano prima, si sono scoperte e le due pratiche proprio sono dovute scendere un po' anche a compromessi l'una verso l'altra, fino ad arrivare a un momento in cui siamo sentiti abbastanza sicuri sulla creazione di uno spettacolo che reggeva e che può stare, appunto, può richiedere al pubblico di starci davanti. Spettacolo che abbiamo, tra l'altro, di cui abbiamo presentato un primo studio a settembre a Roma, allo Shore Theater, e questo, diciamo, è il secondo studio più, ovviamente, assolutamente inedito e più preciso. È un processo di creazione sicuramente interessante che meriterebbe di essere approfondito in una sede più ampia, diciamo, e poter sviluppare un dialogo, perché ha sicuramente un portato che a me, sinceramente, al Coxo Spaziale interessa tantissimo. Sarebbe proprio bello andare a intervistare le due artiste, magari mettici una buona parola, che se concedono qualche contenuto per le prossime puntate. Elisa, magari sì. Speriamo. Intanto io ti ringrazio tantissimo per questa spiegazione e anche per aver concorso alla realizzazione di questo progetto. E ci sentiamo presto. Intanto metto di nuovo lo stacchetto per la gioia anche di Gabriele. Ok. Buon lavoro. Grazie mille, Elisa. Buon grazie lavoro. Grazie a voi. Ciao, vi grazie. Aspetto giovedì e venerdì. Non mancheremo. Ciao. Ciao. E noi andiamo con le nostre spettacolari pubblicità. Pubblicità, o meglio dette, consigli per gli acquisti. Yeah. Creatività generica. Al pub Birreria La Locanda trovi 10 tipi diversi di birre alla spina e puoi gustare pizze, panini e crostini. Inoltre, giochi di società, maxi schermo e tutti i posticipi del campionato di calcio di Serie A. Pub Birreria La Locanda, in via Treves 19, a Bologna, zona stadio. Cucina aperta fino a tarda notte. Gracias. Grazie. Grazie al vostro appoggio, la Scuola di Lingue e Associazione Culturale Italo-Spagnola La Regenta, dopo soli 5 anni, si è spostata in una nuova sede più grande e confortevole, in via San Vitale 38. Dal 10 gennaio ripartono le nostre attività. Corsi di spagnolo per tutti i livelli, corsi di preparazione DELE e di preparazione all'Erasmus, corsi di inglese e di italiano per stranieri. E continuano i già fermati appuntamenti culturali. Sostienici con la tessera associativa annuale ed entrerai gratis a tutti gli eventi. Per informazioni ed iscrizioni, laregenta.it o telefona allo 051 0972 760. Ricominciano i nuovi corsi della Regenta. Os esperamos numerosos. Ehi, dammi un po' un consiglio. Volevo invitare a cena una tipa molto carina in un posto giusto. Hai qualche idea? Veramente ne ho due. Se vuoi fare una cenetta a base di carne cucinata divinamente, portala a Red Brick. Il posto è caldo e accogliente. Hanno birre artigianali e anche un ricco menù veg. Già mi piace. Oppure sorprendila e portala a fare un brunch. La domenica dalle 11 del mattino, pancake con sciroppo d'acero, vellutate, uova con bacon, una colazione unica. Ottima idea. E dove? Sempre a Red Brick, in via Frassinago 2C, telefono 051 580 950. E tutta la settimana sono aperti anche per pranzo. Allora faccio così: stasera la porto al Red Brick e domattina pure. Jingle. Ancora, è vero, sempre di più. Ma lo vuoi quello intero? Dai, sì, dopo la pubblicità, sì. Usa l'angolo della menzione. Domenica 24 gennaio alle ore 18:30 al via la sesta edizione di ON, progetto di arte contemporanea che invita artisti italiani e internazionali a realizzare opere site-specific, azioni e performance in luoghi pubblici della città di Bologna. L'edizione di quest'anno coinvolge Ludovica Carbotta e Adelita Ujnibei, a misurarsi in maniera diversa ma complementare attorno alla sfera pubblica e sociale dell'arte, aprendo riflessioni sul futuro. Ed è con noi telefonicamente Martina Angelotti, curatrice di ON. Pronto? Ciao, benvenuta alla 126esima puntata di Coxo Spaziale. Grazie mille per essere stata coinvolta in chi ha portato a mixer in questa rapsodica telefonata che ti è sopraggiunta così. Infatti sono stata veramente un po' pessima, ma sai, i tempi sono molto ristretti perché abbiamo tantissime menzioni al fuoco stasera. No, figurati, infatti mi hai colto un po' alla sprovvista, ma sono reattiva anch'io, tranquilla. Martina, quindi due progetti per ON quest'anno, giusto? Dunque, ON inaugura domenica, appunto, come hai già anticipato tu, con un'installazione al Parco del Cavatizzo di Ludovica Carbotta. È stata un po' dura, ma ce l'abbiamo fatta alla fine, perché insomma il progetto non è facilissimo, è abbastanza complesso da un punto di vista proprio della realizzazione, però insomma noi ci aspettiamo che sia compreso e bello per tutti. Si tratta proprio di una sorta di città sopraelevata, diciamo, fatta di due strutture che saranno posizionate in due punti diversi del parco, che si guarderanno l'una con l'altra. E una di queste è una grande scala che rappresenterà un po' idealmente l'accesso a questa città sopraelevata a cui si è ispirato tutto il progetto di Mono We, che è il titolo dell'installazione Ludovica. Molto bello. E quanto alla...